Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Salva Danaio. In questa estate di nuovi eventi di crisi finanziaria, come avrete avuto modo di leggere, i giornali si sono molto concentrati, lo ha fatto anche il Sole 24 Ore, sull'analisi di tutte quelle opzioni che i risparmiatori stanno scegliendo per proteggere il proprio risparmio, il proprio capitale dagli scossoni di borsa, dalla volatilità dei bot, ma anche dall'incertezza politica. E sì, perché a spaventare molte famiglie non è solo la borsa che va su e giù, ma anche lo scenario legislativo che ci si prospetta con tutte le ipotesi che si continuano a fare. È già intervenuta, ne abbiamo parlato tanto prima della pausa estiva, prima delle ferie, la rimodulazione dell'imposta di bollo sui dossier e titoli, facendolo diventare un super bollo per portafogli naturalmente di valore elevato, ma la nuova imposta maggiorata colpisce anche i dossier e titoli di valore superiore a 50.000 euro, un risparmio che può essere quello mediamente accantonato da molte famiglie italiane. Poi si è discusso a lungo della possibile elaborazione ed applicazione di una patrimoniale, ipotesi che sembra essere definitivamente tramontata, ma che ogni tanto torna sulla bocca di qualche parlamentare. È stata rimodulata la tassazione sulle rendite finanziarie, che per la verità è stata armonizzata in termini positivi, perché l'aliquota sarà ora per tutti gli strumenti di risparmio al 20%, con l'eccezione dei titoli di Stato che rimarranno tassati al 12,5%. Insomma, perché ho fatto tutto questo preambolo questa mattina? Perché da quello che alcuni colleghi giornalisti hanno avuto modo di appurare, molte famiglie temono che non sia finita qui, che possa arrivare una tassazione aggiuntiva al proprio risparmio e non ci stanno. E allora sembra che stia tornando una vecchia abitudine, per la verità ciclicamente cavalcata soprattutto dai grandi evasori fiscali, che poi grazie alle operazioni di scudo fiscale rimpatriano i capitali in Italia, cioè quella di portare il proprio denaro nelle banche svizzere. Allora, come si è arrivati a questa conclusione? Intanto da alcuni dati della Banca d'Italia, che avrebbe certificato che, ad esempio, nel mese di giugno dai conti correnti italiani si sarebbero come volatilizzati 23 miliardi di euro di depositi, pensate, la metà del valore della manovra di Ferragosto. Dove sono finiti questi soldi? Pare ben custoditi in cassette di sicurezza o conti correnti di molte banche svizzere. Chiaramente nessuno li ha visti, ma molti indizi portano lì. Ma è così facile fare queste operazioni? È davvero conveniente portare lì il nostro risparmio, affittare una cassetta di sicurezza svizzera? Che differenza c'è fra l'utilizzo di una cassetta di sicurezza invece in una banca italiana? I primi di agosto un collega del Sole 24 Ore si è fatto un giro a Lugano, Alessandro Galimberti, e stamattina ci racconterà cosa ha scoperto. Alessandro, buongiorno e benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno a voi. Eccoci qua, e tra l'altro volevo ricordare che la sua inchiesta, che è dei primi appunto del mese, è stata replicata ieri anche da Repubblica, anche Plus 24 del Sole 24 Ore, dedicato a questo tema, la sua storia di copertina di sabato scorso. Stamattina avremo anche l'esperto di queste tematiche, l'avvocato Fabrizio Bedana, responsabile dei servizi legali dell'Unione Fiduciaria SPA, la fiduciaria delle banche popolari. Avvocato Bedana, bentornato anche a lei. Buongiorno a tutti. Devo ringraziare entrambi doppiamente questa mattina, perché sono in vacanza, ma ci hanno dato lo stesso la loro disponibilità appunto per l'organizzazione di questa trasmissione. Allora, raccontateci un po' come la pensate su questo argomento. Siete stati tentati di chiudere i conti correnti in banca per portare tutto e chiudere tutto in una cassetta di sicurezza in Svizzera, il vostro contante, così come magari anche i vostri gioielli, perché poi magari hanno delle dimensioni anche un po' più importanti di quelle che immaginavate? Tra l'altro, da quello che ha appurato anche lo stesso Alessandro Galimberti, poi ce lo racconterà, addirittura le banche, alcune banche svizzere che ha visitato, non hanno più neanche quelle di piccole dimensioni, hanno solo dimensioni extra large, per cui insomma abbiamo l'opportunità di metterci dentro anche qualcos'altro, magari qualche altro tesoretto in casa. Ma io vorrei anche un po' sdrammatizzarla la questione di questa mattina, non invitare a far questo i risparmiatori che ci ascoltano, ma comunque ragionare un po' su questa tendenza che si sta manifestando. 800240024, il numero verde per le vostre domande, le vostre osservazioni, che ci potete rivolgere anche scrivendoci al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. C'è intanto un ascoltatore, Paolo, che si lamenta del fatto che ho utilizzato la parola volatilità attribuendola ai bot, vabbè, insomma, abbiamo visto quello che è successo sui rendimenti dei titoli di Stato italiani nelle scorse settimane, e utilizzeremo un'altra parola. Comunque i rendimenti dei titoli italiani, soprattutto sul mercato primario, sono finiti alle stelle, tanto che la Banca Centrale Europea, per calmare un po' la situazione, è dovuta intervenire comprandocene parecchi, per cui Paolo cambieremo termine e ci concederemo un po' meno licenze giornalistiche, ma insomma abbiamo visto una certa volatilità anche sul mercato obbligazionario, poi lei lo chiami come preferisce, ma a me piace chiamarlo così. La borsa stamattina era partita abbastanza bene, con rialzi ben superiori al punto percentuale in quasi tutti gli indici. Poi c'è stato un rallentamento in concomitanza con la pubblicazione dell'IFO tedesco, l'indicatore di fiducia delle imprese tedesche, appunto un indicatore di fiducia quindi che arriva dalla Germania, che ad agosto è sceso a 108,7 punti, il livello più basso da oltre un anno. Gli economisti avevano previsto sì un calo, ma più contenuto, e questo è bastato appunto a far rallentare gli acquisti stamattina sul mercato azionario. Tuttavia la miglior borsa d'Europa è proprio la Germania, la tedesca, che guadagna un punto, mentre Parigi segna un più 0,6%, Londra più tranquilla più 0,19%, Milano guadagnava in avvio un punto e mezzo e poi ha limitato il suo rialzo al più 0,8%. Oltre all'IFO tedesco, l'altro tema che stamattina ha movimentato la seduta, nelle primissime battute però, è stato il taglio del giudizio sul debito del Giappone operato dall'agenzia di rating Moody's. Moody's ha tagliato anche il rating sulle banche giapponesi, e questo stamattina ha portato l'intero indice a perdere oltre un punto. L'euro sul dollaro è 1,44,63, non è cambiato molto il rapporto di cambio dello yen rispetto alle altre divise internazionali. Un'occhiata ai principali temi di Piazza Affari: sta correndo ancora la galassia Fiat, i titoli Industrial più 3,64, Fiat SPA più 3,24, in linea con la buona seduta del comparto auto in tutta Europa. Enel Green Power più 3,35, perché sta guidando i rialzi del settore energetico questa mattina, perché il titolo sostenuto dalle ipotesi di un allargamento della Robin Tax al settore delle autostrade e delle telecomunicazioni, con una conseguente riduzione del balzello sull'energia, e questo infatti porta al ribasso Atlantia meno 3,45 e Telecom meno 2,79%. JP Morgan poi stamattina ha tagliato le stime di utile nel prossimo triennio sul comparto delle banche popolari, e questo porta giù i titoli del settore. La Popolare di Milano meno 1,52, che domani dovrà affrontare anche lo spinoso tema dell'aumento di capitale, è in calo Eni dell'1,12%, Mediaset meno 0,39%. Direi che possiamo lasciare la borsa. Stamattina è una chicca non tanto positiva: c'è stato un nuovo record storico stamattina segnato dal rendimento dei titoli di Stato greci a 2 anni. Il tasso di interesse è schizzato al 40%. Signori, state lontani da questi strumenti, vi prego. Lasciate maneggiare i titoli greci e quelli degli altri paesi a forte rischio solo dagli investitori professionali. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di questa mattina. Allora, a quanto pare si sta rimanifestando una grande fuga dei risparmiatori italiani verso la Svizzera, a caccia di conti correnti ma soprattutto di cassette di sicurezza. Sentite. Crisi economica, borse ai minimi, contributo di solidarietà e prelievo forzoso. Questi gli spettri che aleggiano minacciosi sui risparmi degli italiani. Risparmi teoricamente sempre più a rischio dopo la recente manovra estiva, ricca di provvedimenti e tasse che stanno spingendo numerosi cittadini a ricorrere a un antico stratagemma: nascondere i propri averi sotto il buon vecchio materasso. O ancora meglio, metterli al riparo nelle cassette di sicurezza svizzere, che nel giro di pochi mesi hanno registrato il tutto esaurito. Nemmeno lo scudo fiscale, dunque, sarebbe riuscito a convincere i contribuenti del bel paese ad abbandonare l'idea di riporre i propri risparmi in mani fidate, appunto quelle dei banchieri svizzeri. Come negli anni 70, all'epoca degli anni di piombo e della crisi petrolifera, il risparmiatore va dunque in cerca di cassette dove infilarci il contante e aspettare che passi la bufera. Tuttavia, con il franco svizzero ai minimi e con i costi non indifferenti dei servizi elvetici, la strada non è immune da rischi né alla portata di tutti. Le cassette small, quelle più piccole ed economiche, a misura di banconote, sembrano essere introvabili. Per le più grandi, dove per intenderci è possibile custodire anche gioielli o documenti importanti, l'affitto annuale si aggira intorno ai 270 franchi, ma spesso, per consentire l'addebito della spesa da pagare, è necessario aprire un conto corrente presso la banca stessa.

l'idea di portare il, che è proprio connaturata nei Lombardi, io abito a Como, sono cresciuto a Como, l'idea, il punto di forza del sistema finanziario svizzero è che nell'irrazionale, e probabilmente anche nel razionale del risparmiatore italiano, è considerato un porto assolutamente sicuro, assolutamente discreto. Portare lì i soldi e immagazzinare in una cassetta di sicurezza in questo momento risponde anche a un'altra esigenza di tranquillità. Il franco si è apprezzato moltissimo negli ultimi sei mesi, quindi fare investimenti in euro o convertirli in franchi è molto sconveniente. Soprattutto un dato che segnalavo nel reportage, dopo aver sentito anche alcune fonti bancarie ovviamente riservate e alcuni consulenti e investitori, l'altro problema molto sentito dagli italiani in questo momento è la tracciabilità delle operazioni. Quindi mettere i soldi in una cassetta di sicurezza e lasciarli lì in attesa di tempi migliori, magari anche in Italia, può voler dire nemmeno la banca svizzera ufficialmente sa cosa sto facendo io di questa cassetta di sicurezza. Quindi è una sorta di riservatezza e segretezza sui due versanti che mi ha dato l'impressione di tranquillizzare molto l'italiano, e sono tante decine di migliaia che in questi mesi, in queste settimane, ha trasferito i propri piccoli risparmi in Canton Ticino. E infatti i piccoli risparmi che sono proprio, come dire, il centro della nostra trasmissione di questa mattina. L'avvocato Vedana, abbiamo fatto tantissime trasmissioni con lui, le ultime sulle novità relative all'imposta di bollo, ma ancora di più ne abbiamo fatte fra la fine del 2009 e l'inizio del 2010 sul terzo scudo fiscale italiano, quindi è il nostro esperto di riferimento per le tematiche del rimpatrio di capitali e come si fa a farlo mettendosi appunto esattamente in maniera molto precisa in regola con il fisco italiano. Ma avvocato, non è che per caso lei è anche esperto del percorso contrario, sta facendo consulenze diverse in questo periodo, cioè sta come dire indicando il percorso giusto per portare del denaro in Svizzera? La sto provocando ovviamente perché la conosco, so benissimo come la pensa su questo argomento. Lo scudo fiscale è stata una sanatoria che ha consentito agli italiani di riportare i soldi in Italia, effettivamente, o solo da un punto di vista giuridico, questa è stata la soluzione più utilizzata dagli italiani che avevano i soldi proprio nel Canton Ticino e in Svizzera in generale. Diciamo che ancora oggi molti italiani che hanno scudato, per ora dall'osservatorio che posso avere io lavorando nella fiduciaria che ha fatto una fetta importante dello scudo fiscale, comunque che sono per ora ancora tranquilli, non hanno ancora deciso di ritrasferirsi all'estero, quindi questo è un dato credo abbastanza importante da segnalare. Sui motivi che portano gli italiani a scegliere le cassette di sicurezza straniere, condivido quanto detto Galimberti e credo che sia una motivazione irrazionale, perché anche avere una cassetta di sicurezza in Italia, innanzitutto averla in Italia significa non dover soggiacere a delle imposte particolari, a differenza di quanto avviene in Svizzera. In Svizzera le cassette di sicurezza sono comunque sottoposte ad una tassa cantonale. In Italia il costo di gestione di una cassetta di sicurezza è decisamente inferiore alle centinaia di euro di cui si parlava come di fatto prezzo minimo per le cassette di sicurezza svizzere. In Italia chi ha i soldi nelle cassette di sicurezza, anche vedi la storia del prelievo straordinario fatto dall'allora governo Amato nel 92, non colpì le cassette di sicurezza e quanto era il contenuto, ma colpì i conti correnti, i depositi, quindi l'esenzione riguardava anche le cassette di sicurezza esistenti in Italia. Quindi però lei lo sa che quando si è un po' intimoriti da tutto, evidentemente al passato non si guarda, si guarda la situazione contingente, e molti evidentemente hanno pensato di mettere a riparo nel giro di poco tempo i propri averi nell'incertezza, visto che poi quello che è successo in passato non si ha mai appunto la convinzione che si possa ripetere nel bene e nel male, quindi per non saperne leggere né scrivere molti hanno preferito prendere questa strada, anche se davvero io la considero molto suggestiva, l'immagine di chi magari di venerdì mattina va in banca, preleva 50.000 euro, li mette in valigia, si fa la sua scampagnata a Lugano per portare appunto questo denaro il lunedì mattina in Svizzera. Però a quanto pare proprio quello che è capitato, documentato dai nostri colleghi e confermato anche dai impiegati appunto di banca, delle banche interpellate dal nostro Alessandro Galimberti. Adesso ci fermiamo perché ci sono tante domande da parte di molti ascoltatori su tutto questo. 800 24 00 24, numero verde con il quale ci potete continuare a scrivere. effettivamente un ascoltatore ci dice: non capisco se la vostra è una denuncia o uno spot, quindi un invito a fare tutto questo. Lo sa che è la stessa domanda che mi sono fatta io ieri pomeriggio quando cercavo di dare una linea alla trasmissione di questa mattina? È una testimonianza di quello che sta succedendo nell'uno o nell'altro. Io vorrei più che altro invitare le persone a non fare appunto tutto questo, a non portare risparmio fuori dall'Italia, però dobbiamo anche prendere atto di quello che sta accadendo e commentarlo in maniera razionale. Allora, le famiglie italiane stanno cercando di proteggere al massimo il proprio risparmio perché si sono naturalmente spaventate dalla crisi finanziaria che si è tornata ad acuire di nuovo in questo agosto da dimenticare, ma soprattutto a quanto pare adesso quella che preoccupa maggiormente l'incertezza politica, l'incertezza relativa a nuovi interventi legislativi che possano gravare ulteriormente sul risparmio delle famiglie. L'ipotesi patrimoniale è stata a quanto pare definitivamente accantonata, però insomma c'è stato l'aumento del bollo sui dossier titoli, c'è stata la rimodulazione della tassazione sulle rendite finanziarie, insomma tutto questo porta le famiglie a riconsiderare il mantenimento del proprio risparmio nelle banche italiane. A quanto pare, secondo quanto hanno potuto documentare alcuni giornalisti, tra cui il nostro Alessandro Galimberti del Sole 24 Ore, in molti stanno facendo le valigette e stanno chiudendo i rapporti di conto corrente in Italia per spostare tutte queste banconote vere e proprie in cassette di sicurezza svizzere, di banche svizzere, in conti correnti svizzeri. Da che cosa è documentato tutto questo? Ce lo raccontava prima il nostro Alessandro Galimberti. Intanto proprio dai dati della Banca d'Italia, che ha testimoniato per esempio come a giugno si siano davvero smaterializzati, volatilizzati qualcosa come 23 miliardi di euro di depositi, e lo ribadisco, pensate, è la metà del valore della manovra di Ferragosto. Quindi, partendo da questi dati che sono ufficiali, che sono quelli della Banca d'Italia, partendo anche da quanto si può, se uno fa un buon lavoro giornalistico, appurare all'interno degli ambienti delle banche svizzere, stanno finendo le cassette di sicurezza e molti impiegati sentiti dal nostro Alessandro Galimberti hanno proprio così confessato candidamente che sono molti gli italiani che stanno chiedendo di collocare le proprie banconote e monete sonanti appunto all'interno di queste cassette. Ma è tutto così facile? Allora, stamattina, oltre che la testimonianza di Alessandro, abbiamo anche l'avvocato Fabrizio Vedana, appunto, che ci sta aiutando a capire se poi tutto questo è così facile da fare. Allora, avvocato Vedana, un ascoltatore ci chiede in maniera molto chiara: ma è un'operazione legale quella del prelievo del proprio denaro dal conto corrente per poi spostarlo in Svizzera, anche alla luce del fatto che poi queste operazioni vanno denunciate in dichiarazione dei redditi, per esempio l'anno prossimo? Cioè il fatto di avere un risparmio... Legale, ecco, sì. Sì, l'operazione di prelevamento dal proprio conto corrente si può fare se si superano determinati importi, probabilmente la banca presso la quale viene fatto il prelievo farà una segnalazione di operazione sospetta. In particolare, se si supera l'importo di 15.000 euro, la banca potrebbe cominciare a fare delle domande sul perché, sul per come viene fatta questa operazione di prelevamento. Il successivo trasferimento all'estero di queste somme, se sono state appunto prelevate, quindi trattasi di denaro contante, può essere fatto entro un limite che è di 10.000 euro per persona, può essere fatto il cosiddetto trasporto al seguito. E quindi se si è in quattro familiari si possono portare 40.000 euro oltre confine. È evidente che la cosa, se nulla si ha da nascondere né al fisco né ad altri, è di non effettuare un prelevamento dal conto corrente, ma di effettuare un bonifico dal conto corrente italiano all'eventuale conto corrente di appoggio estero, svizzero e via dicendo, ed è una cosa assolutamente lecita, anche questa è evidente che è tracciabile. Il tema della tracciabilità, come ricordava Galimberti, è un tema sicuramente di grande importanza per il risparmiatore che si sta accingendo o già ha fatto questa operazione. Ecco, quindi se viene fatta un'operazione trasparente, tracciabile, regolare come il bonifico, per esempio di 50.000 euro in un colpo solo, la banca in quel caso originaria non la considera un'operazione sospetta, non deve denunciarla? Avvocato Vedana? Dovrà valutarla comunque alla luce delle motivazioni sottostanti. La normativa antiriciclaggio negli ultimi anni è diventato sempre di più un tema di grande importanza per le banche italiane e da sempre anche per molte banche estere, svizzere comprese. In Italia è evidente che la soglia di attenzione è fissata oggi alla luce proprio del decreto anticrisi addirittura 2.500 euro, prima era 5.000 euro. Al di sopra di queste soglie la banca comincia a fare domande al cliente che effettua prelevamenti o diverse operazioni nel giro di poco tempo di prelevamento. Se le fa attraverso un bonifico dal conto italiano verso un conto estero, l'attenzione comunque ci sarà, ma è evidente che l'origine dei soldi e soprattutto il destino finale dei soldi, cioè una banca estera, una banca svizzera, è comunque un elemento di fondamentalmente di tranquillità per la banca italiana, perché non vede nel prelevamento, invece normalmente fatto con in contanti, senza motivazioni, senza sapere dove vanno a finire. Si sa da dove escono, dal conto corrente italiano, e si sa dove arrivano, un conto corrente di una banca estera. Allora, quindi c'è minore sospetto nell'operazione. Prima le ho specificato anche l'aspetto della regolare dichiarazione di questo risparmio detenuto in una banca svizzera, appunto, però nei confronti del fisco italiano, perché io mi ricordo, e lo fa anche un ascoltatore, poi le leggo il messaggio, che quando facemmo tutte le puntate sullo scudo TER, lei ci parlava molto spesso di questo riquadro RV nella dichiarazione dei redditi, sì. Avvocato Vedana, e allora Bruno ci segnala, forse sarebbe il caso di ricordare che le norme fiscali vigenti obbligano, pena sanzioni pesantissime, di monitorare queste operazioni, questi movimenti nel quadro appunto V del modello unico. Quindi se io oggi decido di, con un bonifico, spostare 50.000 euro dal mio conto italiano ad un conto che ho aperto presso una banca svizzera, devo far sapere al fisco italiano l'anno prossimo che io ho fatto questo movimento, che ho questo risparmio? Assolutamente sì, lo devi fare, e se non lo fai rischi sanzioni particolarmente pesanti, perché lo scudo fiscale aveva consentito di mettersi a posto col fisco, ma aveva irrigidito, aveva reso più severe le sanzioni, che possono arrivare fino al 480% di quanto non dichiarato. Quindi l'italiano che porta i soldi all'estero con contante, con bonifico, con altre forme, dovrà ricordarsi, e soprattutto ricordarlo al suo commercialista, che probabilmente sarà quello che glielo farà, con aggravio di spese, anche questo è un altro degli elementi da valutare quando si apre un conto all'estero, quando si fa un'operazione di apertura di cassetta di sicurezza, che bisogna calcolare anche il costo di compilazione dell'RV, che a volte richiede poco tempo, a volte richiede più tempo, ma comunque richiede l'intervento normalmente del commercialista, che giustamente si farà pagare per il tempo che dovrà spendere per far fronte a questo obbligo dichiarativo. Ecco, quindi quando portiamo 50.000 euro in Svizzera, a meno che anche se non scegliamo il conto corrente ma scegliamo la cassetta di sicurezza, non è che poi l'anno prossimo appunto al fisco italiano questa informazione sfugge, quindi anche la cassetta di sicurezza dobbiamo denunciarla, avvocato Vedana, con tutto il suo contenuto? Assolutamente, quando si hanno delle disponibilità all'estero rappresentate da titoli, da liquidità piuttosto che da opere d'arte, gioielli, ormai il quadro RV chiede che si venga compilato ogni qualvolta si hanno delle attività finanziarie e non patrimoniali, quindi anche la casa e via dicendo, quindi tutto deve essere dichiarato nell'RV. Lo Stato vuole sapere dove hai i soldi, ma anche dove hai le altre attività finanziarie, ripeto, non finanziarie. Certo, quindi Gianluca ci scrive, ma questi capitali portati all'estero sono dichiarati o no? Li abbiamo spiegato appunto che devono naturalmente essere dichiarati, se no è chiaro, è evasione fiscale. Un altro ascoltatore ci chiede che differenza c'è tra depositare all'estero e depositare in banche estere presenti in Italia. Avvocato Vedana vuole fornirci la sua consulenza anche su questo punto? Beh, depositare in banche estere che operano in Italia significa depositare praticamente come se quelle fossero banche italiane, perché saranno assoggettate a tutti i controlli fiscali della Banca d'Italia, della Guardia di Finanza e delle altre autorità di vigilanza, e quindi a domanda dell'autorità finanziaria, della Guardia di Finanza, sul fatto che il signor Pinco ha dei soldi, delle disponibilità presso la banca svizzera che opera in Italia, la banca svizzera deve dare una risposta puntuale, rapida e tempestiva. L'eventuale conto corrente che l'italiano avesse presso la banca estera che opera in Italia, dovesse mai arrivare una patrimoniale, un prelievo straordinario tipo Amato, verrà tassato alla stessa stregua del conto corrente che l'italiano ha presso una qualsiasi banca italiana. Conto estero segue un'altra strada, quindi la sovranità fiscale di uno Stato si ferma entro i confini nazionali, ma si applica a tutti coloro che operano all'interno del territorio nazionale. Benissimo. Non trova applicazione oltre i confini. Adesso ricoinvolgo Alessandro Galimberti, perché sennò penserà che mi sono dimenticata di lui, non l'ho fatto per niente. Alessandro, adesso ci risentiamo senz'altro, però vorrei anche cominciare a coinvolgere alcuni ascoltatori su questo argomento, iniziando con Franco da Ancona. Franco, buona giornata. Buongiorno a lei, dottoressa, buongiorno ai suoi ospiti. Volevo dire, in maniera maleducata direi, è una grande B, ma Baggianata, diciamo, Baggianata. No, no, no. Di, diciamo è una grande non verità. Per tre semplici motivi. Innanzitutto, tutti sanno, anche il più stolto del mondo. Cos'è? Che ormai le cassette di sicurezza in Svizzera sono alla luce del sole, perciò nessuno porta più soldi in Svizzera. Secondo punto, gli italiani non hanno più soldi da portare in Svizzera all'estero. Le carte da 500 euro ce l'hanno soltanto gli stranieri. C'è rimasto poche cose, 50 euro, 100 euro a voglia a portare. Terza cosa, quello che dice la Banca d'Italia non è vero, perché è un fatto che viene prelevato in questo periodo, perché le famiglie sono indebitate, hanno bisogno di liquidità, un po' per le vacanze, un po' per i nipoti, un po' per i familiari, perciò è una caccia alle streghe, è un fatto politico di far credere che si esporta denaro in questo momento, ma non esiste, non è vero, sono esperienze personali e di colleghi che conoscono molto bene la Svizzera e che maneggiano denaro. Franco, questa è l'opinione, mi scusi dottoressa, ma mi sentivo di fare no, ma guardi, io le posso solamente dire che apprezzo moltissimo la sua franchezza, ne prendo atto, perché non ho nessun modo, non ho nessun motivo appunto per contraddire appunto le sue teorie, che naturalmente sono anche vere, perché so benissimo che molte famiglie sono in difficoltà, quindi è sicuramente anche vero che gran parte di questi depositi che dalle banche si sono volatilizzati è perché la famiglia preleva, ma poi magari non può rimpinguare lo stesso conto corrente perché manca il lavoro all'interno del nucleo familiare, per cui è sicuramente vero quello che dice. Gli italiani non hanno soldi, molte famiglie non hanno soldi, Franco, io continuo però a sostenere che c'è molta evasione fiscale ancora nel nostro paese, ieri ne abbiamo parlato a lungo, anche perché c'è tutto questo timore del fatto adesso che si devono fare degli assegni appunto di importo inferiore rispetto a quello che veniva appunto applicato in precedenza, per cui sono tutte verità quelle che lei dice, Franco, però quella tendenza che Alessandro Galimberti sul Sole 24 Ore ha raccontato c'è, e per quale motivo allora un funzionario di banca, di una banca svizzera, dovrebbe raccontare che arrivano gli italiani che chiedono le cassette di sicurezza se questo non fosse vero? Alessandro, che ne pensi? No, penso che il punto è l'osservatorio che è diverso, probabilmente Ancona è diversa, è una realtà diversa rispetto a Milano e alla Lombardia. Sì. A Lombardia è vero, c'è una larga fascia di risparmiatori che non sono più risparmiatori, ma c'è anche ancora una larga fascia, io ho scritto ancora per un po' probabilmente, di media borghesia che disponibilità ne ha. E io ripeto, sto parlando di inchiesta, era il target era quello del piccolo risparmio, neppure dell'evasione fiscale, della smobilitazione di risparmi accumulati negli anni e messi al sicuro della Svizzera in un momento di profonda di incertezza e di grande irrazionalità. Io i colloqui con le banche sono anche indicate nel mio pezzo, non c'è il nome della ragione sociale, ma ci sono gli indirizzi dei paesi, quindi cioè, i riscontri al fatto che è difficile trovare cassette di sicurezza, perché quelle piccolissime dove la gente mette i contanti è un dato di fatto, cioè riscontrato dalle banche stesse. Io, se permetti, introdurrei anche l'argomento controlli, no? Certo. A proposito di tracciabilità, perché poi ci si chiede come ma è così facile, esatto, bravo, sai che te la volevo, senti, se hai un minuto di pazienza parliamo approfonditamente di questo aspetto dopo i suggerimenti, perché in viaggio, perché era proprio il tema che ti volevo porre io. Ma insomma, uno passa con una valigetta piena di contanti alla dogana svizzera, mai possibile che nessuno faccia un controllo, anche se fosse fatto questo solamente a campione, tutti la passano liscia. Ci scrive Gian Pietro, leggo al volo la mail arrivata adesso all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Sono d'accordo con voi, stiamo parlando di una cosa anomala, le cassette di sicurezza in Italia costano meno, ma il problema è che siamo in Italia e che i nostri incapaci politici hanno la mente perversa per rubare nelle tasche degli italiani. Vabbè, non avevo letto prima la mail, la leggo adesso in diretta live con voi. Secondo me la cosa che fa pensare veramente è che questa è la conseguenza di come la fiducia nei confronti dei nostri politici non esista più. Pietro, è stata proprio questa la premessa effettivamente della nostra trasmissione, per cui nessuno spot, nessun invito a perseverare nella pratica di portare in Svizzera, nessuna condanna nei confronti di chi lo fa, sono delle scelte, l'importante è che tutto avvenga, ecco, nella maniera più trasparente possibile. Allora, quello che dicevo prima, Alessandro Galimberti, collega del Sole 24 Ore, dopo il suo viaggio di Lugano, è che effettivamente io considero molto pittoresca l'immagine appunto di queste lunghe file di macchine di famiglie italiane che hanno questi borsoni magari della palestra, che quindi si possono nascondere molto bene agli occhi delle doganiere, piene di denaro. Poi non è che stiamo parlando appunto di milioni di euro, ma di decine di migliaia, e che comunque non sono pochi, che effettivamente riescono a passare tranquillamente in dogana senza che nessuno chieda loro niente. Ecco perché forse magari la pratica del bonifico è quella un po' più praticata. La pratica del bonifico è praticata, è un gioco di parole ma che rende l'idea. Alessandro. la possibilità di essere controllati in dogana negli ultimi 20 anni, la possibilità statistica si è sempre più ridotta. Le cose sono cambiate poi radicalmente nel 2009, a fine 2009, quando la Svizzera di fatto ha aderito all'area B di Schengen, con libero movimento di persone e parzialmente delle cose sul territorio nei rapporti con l'Unione Europea. Si è passato da un controllo a campione, che era mediamente, statisticamente, a guardia di finanza, di un'auto ogni 50, adesso a percentuali molto molto molto più basse. La possibilità di essere controllato è bassa, perché è proprio statistica. La possibilità di arrivare all'apertura dei cassettini, al controllo del baule, alla perquisizione della borsa personale e delle borse è veramente limitata. A meno che proprio non ci sia la segnalazione che sta passando un'auto con un criminale dentro e che va perquisito per forza, ma immagino che appunto indici di anomalia, cioè l'auto di grossa cilindrata, magari con targa non locale, cioè non la sigla Como, non la sigla Varese, magari Milano, magari anche targhe estere. Ci sono, insomma, devono esserci degli indici di anomalia. Passare con la propria autovettura, non con le valigette, ma con le tasche, con qualche rotolo di euro, la possibilità è molto bassa. Devo dire che però nel caso in cui si venga controllati... Io te l'immagine del rotolo delle banconote è fantastica, Alessandro, veramente, magari legate con l'elastico, così. Sì, perché è così che funziona così. Però la possibilità è bassa, ma nel caso si venga fermati in dogana, siccome comunque c'è l'obbligo di dichiarare che si sta esportando valuta anche per uso personale, ecco lì poi comincia un gorgo, è solo l'inizio la verifica in dogana. Quindi questa è una domanda che comunque viene fatta sempre? Quando il doganiere ti chiede c'è qualcosa da dichiarare, tu lo devi dire sì, ho una busta con 10.000 euro. Se finisce il controllo del campione lo devi dichiarare, in realtà il presupposto è che tu lo dichiari anche se non ti controllano, quando passi dici guardi ho valuta in tasca ma per uso personale. L'essere invece sorpresi senza aver fatto la dichiarazione e magari con una somma eccedente il limite, la franchigia di 10.000 euro per persona, come ricordava l'avvocato Vedana, innesca però un procedimento, adesso dobbiamo dirlo, anche kafkiano, perché poi da lì parte la segnalazione alla Banca d'Italia, viene poi trasferita in base alla cifra anche al comando territoriale di competenza della Guardia di Finanza e lì si entra poi in un monitoraggio a lungo periodo. Voglio dire, la possibilità di essere presi bassa nel momento in cui si viene sorpresi anche a esportare una somma, una quantità lecita, ma senza aver fatto la dichiarazione, innesca poi tutta una serie di conseguenze di cui il contribuente patisce poi per anni. Ecco, questo è un dato obiettivo di fatto. Infatti, allora, molti messaggi di tanti ascoltatori che esprime la sua indignazione, che invece è molto incuriosito di quello che succede. Io abito a Seregno, ci racconta un ascoltatore, a meno di 30 km da Chiasso. Sarò sfortunato, avrò anche la faccia da criminale, ma ogni volta che vado in Svizzera mi fermano in dogana. Poi, siccome io sono sempre Alice nel Paese delle Meraviglie e ho parlato così di questa immagine di chi porta il denaro in Svizzera con delle valigette, proprio l'immagine cinematografica dell'operazione, oppure nel borsone della palestra per occultare questo denaro al meglio, e invece molti ci spiegano molto dettagliatamente che per esempio 10.000 euro sono 20 banconote e stanno in un pacchetto di sigarette, ma quale valigetta, mi dice Stefano, provi a fare una prova da 500, quante volume minimo hanno, quindi è facilissimo, basta un pacchetto di sigarette per andare a aprire un conto corrente in Svizzera o aprire la cassetta. Di sicurezza, avvocato Vedana, un paio di domande tecniche per lei. La prima è quella di Elena da Genova. Buongiorno Elena, l'ho fatto aspettare un po', mi scusi. Sì, buongiorno. Io volevo semplicemente chiedere se i limiti, le regole che ci sono per l'esportazione di valuta sono uguali anche per i cittadini che hanno una doppia nazionalità, italiana e svizzera. Perfetto. Avvocato Vedana, sembra una domanda interessante. Beh, se la dichiarazione fiscale viene presentata in Italia e si portano denari all'estero, anche se si ha la doppia cittadinanza, vale comunque la regola della residenza fiscale dal paese dal quale si sta uscendo. Quindi se si è italiani, comunque avendo anche il doppio passaporto, quindi anche quello svizzero, comunque c'è l'obbligo di fare dichiarazione in dogana degli eventuali importi superiori ai 10, pari o superiori ai 10.000 euro che si portano a seguito. Allora, Denis dalla provincia di Bergamo. Denis, buongiorno anche a lei. Buongiorno, volevo fare una domanda. Sì. Se decidessi di portare 50.000 euro in Svizzera, sì, volevo sapere nella dichiarazione dei redditi quanto dovrò pagare poi in tasse in Italia? Beh, dipende anche da tutto il resto dei redditi percepiti, Denis. E allora, effettivamente, siccome abbiamo parlato della necessità di dichiarare quello che si porta fuori, avvocato Vedana, nel famoso riquadro RV del modello unico, l'anno prossimo poi effettivamente ci si chiede, visto che si tenta di sfuggire adesso per evitare tassazioni aggiuntive, in ogni caso se si porta fuori poi effettivamente grava una tassazione anche su questo risparmio all'estero? Beh, diciamo, sempre stando al paese con il quale stiamo parlando oggi, la Svizzera, se io apro con quei soldi un conto corrente in Svizzera, su quel conto maturerò degli interessi, la Svizzera applicherà già di per sé una cosiddetta euro ritenuta, cioè applicherà una ritenuta del 35% sugli eventuali interessi che mi venissero pagati su quel conto corrente di 50.000 euro. Quindi ipotizziamo che mi maturi 1.000 euro di interessi, ci pagherò già 350 euro come euro ritenuta e dovrò nel quadro RV eventualmente aggiungere quelle che sono le eventuali differenze rispetto a quello che è la mia aliquota fiscale applicata. Quindi dovrò, ripeto, per questo che non è così semplice compilare RV, dipende da quanto già è stato applicato alla fonte dalla banca svizzera intermediario ritenuta, quanto devi pagare in ragione del tipo di scaglione nel quale sei inserito, e quindi mettersi con la calcolatrice a fare due conti, capire se e quanto devi ancora pagare allo Stato italiano. L'RV comunque è un quadro che serve fondamentalmente soprattutto non tanto e non solo per applicare delle imposte, ma per sapere fare la fotografia delle attività finanziarie e patrimoniali che l'italiano ha oltre confine. Mm-hmm. Questo ai fini di che cosa? Ai fini ad esempio di capire se i tenori di vita che ha, viaggia col Cayenne a 10 case, via dicendo, è compatibile con le attività finanziarie, reddituali di varia natura di cui dispone. Quindi il quadro RV potrebbe essere indice del fatto che comunque può viaggiare in Cayenne, può avere 10 immobili perché ha delle attività finanziarie oltre confine che giustificano appunto il fatto che può avere un tenore di vita pur magari dichiarando soltanto 50.000 euro all'anno. Allora, intanto, avvocato, proprio in virtù della risposta che mi ha appena dato, le preannuncio che forse andrà fatta anche una trasmissione su questo, ma magari la faremo così con l'avvicinarsi della stagione della nuova dichiarazione dei redditi, quindi nei mesi a venire. Molti ascoltatori ci stanno facendo domande non sul tema che abbiamo proposto questa mattina, quindi le cassette di sicurezza che molte famiglie italiane stanno aprendo in Svizzera per depositare il proprio risparmio, ma proprio su come si gestisce l'investimento fatto in un altro paese e come ci si pone in una posizione in regola con il fisco italiano. Per esempio, un'ascoltatrice ci ha telefonato, un'ascoltatrice di Varese, credo, siccome ha comprato un'abitazione in Inghilterra per alcuni nipoti, deve sapere appunto come lei deve comportarsi con il fisco italiano. Magari tutto questo sarà oggetto. Se volete, scriveteci all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, perché l'avvocato Vedana ci dà sempre una mano a rispondere a tutti. In caso contrario, appunto, faremo una puntata specifica su questi argomenti più avanti. L'ultima questione la pongo ad Alessandro Galimberti, ormai siamo verso i saluti, perché c'è un ascoltatore che al 349-238-6666 ci scrive: chi porta il denaro e lo mette in una cassetta in una banca svizzera perde però il valore dell'inflazione oppure investe questo denaro? Perché l'altro tema è questo: effettivamente adesso si cerca di scappare con questo denaro, di metterlo al riparo all'interno della cassetta di sicurezza in Svizzera, perché si pensa che sia, come dire, il rifugio per definizione, no? La banca svizzera, Alessandro, ma poi tutto sommato effettivamente è l'euro e la banconota che tu metti lì dentro, ma fra un anno, qualora l'inflazione schizzasse, comunque hai perso anche del valore, oltre al fatto che ci hai pagato l'affitto, la tassa cantonale, come ci spiegava prima l'avvocato Vedana, per cui che cosa hai protetto alla fine? Beh, nello specifico forse non è così, perché l'euro è destinato comunque a riapprezzarsi un po' rispetto al franco, però la domanda è molto interessante, anche perché l'ho posta a un consulente finanziario che è ex vice direttore di un'importante banca svizzera, da poco in pensione. Gli ordini che lui sta ricevendo, richiamati in servizio dalla banca per seguire la clientela italiana, è quello di prelevare periodicamente nel giro di poche settimane le somme messe nella cassetta di sicurezza e portarle progressivamente in investimento o comunque in conto corrente svizzeri. Questo però dà anche ragione del periodo in cui è stata fatta questo viaggio, questa inchiesta in Svizzera da me, che erano i giorni della grande incertezza, sì, che secondo me nel risparmiatore stanno perdurando e perdureranno ancora fino a quantomeno la conversione della manovra. Però chi si avvale di un consulente in questi momenti di grande incertezza, gli ordini che dà, o insomma l'accordo col quale che interviene col consulente, è quello di smobilizzare poco per volta questi soldi e portarli progressivamente in investimento, in conto corrente, in prodotti finanziari. Quindi la cassetta, diciamo, di sicurezza è proprio un investimento di brevissimo termine, da quello che capisco. Comunque magari ci ritorneremo su questi aspetti, se questa tendenza tendenza più avanti dovesse consolidarsi, bisognerà analizzarla di nuovo. Alessandro Galimberti, grazie, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Grazie anche all'avvocato Fabrizio Vedana. Lei sa che ho molte mail per lei, eh? Glielo dico già, anche se sta in vacanza la tempesterò nel pomeriggio. Buona giornata. Saluti dal Monterosa. E noi domani torniamo come sempre con Salva Danaio. Grazie a Gaia Romani e Pietro Lacorte. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani.